casa mia, entra chi dico io e chi so che veramente vede e sta zitto, capito? Vede e sta zitto, vede e sta zitto, mentre molta gente invece vede e riporta, vai a cagare, molti non sanno manco dove abito, pochi sono venuti qua e continuano a fare uscire puro. E beh, Massimi, lavatate la era cugliuffa. Sì, sì, dai, saluto a Franco. È così, ha ragione Claudio. A me mi hanno detto che non comparavo a Magname figliola per comparami nel radio, fate lo conto. Che gente verme, come ha detto Claudio, là. Quindi vabbè, lasciamo stare questo discorso là. Kappa, avanti Fra, buonasera, ben ascoltato. Buonasera anche a te. Sì, come dice, tutta gente infelice secondo me, o Massimiliano. Ma io volevo dire a me, ho preso chi sono i bari miei biasi, poi chi ha parlato così, ma lasciamo stare. A me sono arrivati a farmi incazzare a tal punto che sono finito all'ospedale e ho subito due operazioni, non solo d'altro. Oltre a farmi danno che mi hanno fatto verbale, qua mi hanno sequestrato roba, cazzo, più di chi su voi? Cosa devo fare? Pigliare un fusile di parale ai salienti? Boh! A uno l'ha già fatto fare una figura, lì si è allucinanti, ma lì si è allucinanti è vero però, perché ha mandato un messaggio ad un altro, no? Su WhatsApp, adesso che con la testa poi ce l'hai, sapendo che WhatsApp si possono girare messaggi eccetera. Questo che mi conosce molto bene, sa chi sono, ha guardato un po' fastidio di questo messaggio e me l'ha girato. Ci vede il telefono, gli ho detto, aspetta ti faccio ascoltare una cosa. La senti la tua voce, la senti cosa stai dicendo? Ha detto, sta attento, attraversa sempre le strisce pedonali. A chi se non attraversa le strisce pedonali di cazzeggiare pure la macchina di tagliare. E la macchina può avere pure difetti a rifrenimi. Non vedi voci, oh cla. Ma dimmi tu che questo è successo un po' di tempo fa, capite? Lasciamo perdere, va. Sono così tranquillo e sereno a casa mia, grazie a Dio, vieni busciami, lasciamo perdere, la radio non si vive solo di radio ragazzi, si vive di onestà, di tranquillità, non solo di radio. Aspettate un attimo, cosa vuoi là? Aspetta un attimo che forse mi bevo un gin tonic che Massimiliano. E allora io vado giù un attimo e bevo una berretta là, riprendi Gianni a te la palla, falla girare, riprendo subito, va. E vabbè, purtroppo la lingua tante volte è lunga, bisogna accorciarla, i peccati di lingua si pagano di zia mamma. Ed è proprio vero, che sono vigliacchi e vermi la gente, quelli che fanno queste cose così. Ma ti pare ragazzi io vengo, cazzo andare a riportare la cosa, io mi voto di ragazzi miei. Avanti Fra. Si conferma, le cose devono rimanere in famiglia, così è. Ma ci sono quelli che quando vengono in casa tua ti fanno la lastra. Ma nel brutto e l'unetto, cos'è della frase Fra? Ti segava nel brutto e l'unetto, davvero. Funendi sempre. Bisogna sapere, qui c'è Claudio, selezione, bisogna sapere chi fa entrare in casa. E infatti qua non entrerà più nessuno mi... Cazzo, non me ne hanno combinato abbastanza di danni. E già lo credo, Giallo. Gli ha detto non fare venire più nessuno qua perché non faccio entrare nessuno. Cazzo, dimmi tu a che punto siamo arrivati. A di chi va più i baracchini senza armati, non so quanti ne avevo. Boh, io mai avuto baracchini dentro l'armadio. Solo scheletri abbiamo noi dentro l'armadio. Ma grazie mille, sono contento almeno che hai risolto l'antenna, quella era la cosa più importante. Ehi, ho risolto l'antenna e ho risolto anche il TVI. Che stamattina finalmente mi ha fatto entrare quel signore che navio pure bene a navio. Cazzo che non si poteva vedere la televisione, dice che io lo disturbavo. Io ho aggiustato l'antenna, cazzo adesso non lo disturbo più. Così è. Sicuramente l'antenna con i radiali disturba di più. quella senza variali, io me ne accorgo dalla mia, questa qua, la canna da pesca, no, no. È vicinissima la televisione, cioè è un palmo qui laggiù, niente. Lo so che questa non disturba, ma lui lo disturbava a quest'uomo perché c'aveva l'amplificatore a manetta, i cavi tutti marci, c'aveva l'alimentatore con i morsetti che mollati. Cazzo, quando gioco a la giostra a giuducare l'alimentatore mi è rimasto il cavo in mano. Dimmi giù. Era tutto collegato alla cazzo di cane, qualche incompetente l'ha fatto quell'impianto, boh. Tutto a nastro isolante, era. Invece adesso nei cavi ci sono le faccette, tutto fatto bene, capito? Ah, si è cambiato l'antenna anche lui quindi? No, l'antenna non se l'ha cambiata, gliel'ho messa a posto, era un casino l'antenna, ma vorrei a dire. E a quelli che disturbavo avevano problemi lo stesso all'antenna loro, non è che li disturbavo io, li disturbavo perché avevano problemi all'antenna. Questo signore aveva i cavi neri come quelli che ti ho fatto vedere, fra, come quelli del capo mio, figurati. Bruciati dai, vabbè, avanti Gianni. Adesso vi saluto, riprendo dalla macchina e devo andare a prendere aereo, nada, esce dal lavoro fra poco. Vai, vai, vai. Ehi, ci sentiamo, dai, così vediamo come ti ascolto dalla macchina. Che antenna usi? Turbo 2001. Quindi quella alta, quella magnetica. Capagato. Dai, vediamo, dai. Portati anche il metro. Si è andato via. Ehi, devo andare a pigliare alla compagna, devo andare a prendere. Oh signore, hai visto? La gente quanto è cattiva. Cazzo domenica, i vigili del fuoco, ti giuro, sono venuti i vigili del fuoco qua, che l'antenna stava ondeggiando troppo a vedere se la potevo rinforzare. Ma dimmi tu. E invece proprio l'antenna è fatta così, giusto? Piegava solo l'antenna, si piegava. No, già ondeggiava il fallo, la verità, perché non era fissato al terzo piano, adesso è fissato e quindi l'antenna va bene, anche se dovesse sfessarsi, il cavo rimane attaccato, quindi non ne va nessun dubbio. No, ma è leggera l'antenna, no. No, non farebbe male neanche una mosca, l'antenna lì, ma tu vedi, a me è pesa 3 kg. Ma da 10 metri se cade fa danno lo stesso, non ti preoccupare. Sì, non è come l'alluminio, dai. Ma difficilmente, adesso non so come l'abbia messo quel tubo, come è attaccato, però non penso ci siano problemi. No, problemi non ce n'è, adesso già è fissata in 3 posti. L'hai tutta vulcanizzata? Io lo grido, allora senza vulcanizzata, pure dentro un vero attacco di rugavo, pure in chimica vulcanizzata. Non mi butti più, adesso è fatta bene. Dove c'è il PL, diciamo, interno, il PL piccolino? Ehi, dove va attaccato quel cavo lì? Lì pure l'ho vulcanizzata, così anche se piglia acqua, o dovesse entrare acqua che non entra, che è tutta vulcanizzata. E riparato il cavo, capito? Meglio, più la isola è meglio è, meno umidità prende. Se il PL verde era, mi si è rotta, quando l'abbiamo tolto, mi si è rotta la svavatura che c'è nella ghiera, no, quella che abita, e mi ne scida netta netta, vegli era Rubiel. E beh, Anto, vede mala. Cazzo, non ti sentivo mai così bene qua, A me? Eh? E io sempre uguale sono. Cazzo, ti sento mai bene. Prima, forse perché ho cambiato il capo. Prima ti sentivo, eri brutto a livello giù. Non lo so, io non penso di non aver cambiato niente, dai. La potenza è sempre quella. No, ho cambiato io. Ma l'hai detto, cosa hai messo? 213? RG8. Ah, RG8. Ancora meglio, credo, dai. No, va bene. C'è anche Natalino, Gianni sta per prendere la macchina, Claudio sta bevendo e mi sembra sta bevendo anche Massimiliano. Ehi, ok. Adesso beviamo anche noi, mi sa Natalino. Io ho già bevuto. Già lo credo che riceve meglio così, Antu. Ma è ammassato Natalino. E cosa ho abbassato? Non ho abbassato nulla, non posso né alzare né abbassare. Se sto usando l'omologato ti sto dicendo. Uh-huh. E che te ne sei lì o tu? Dove è Sicilia? O dove sei da? Aspetta, forse abbiamo parlato assieme. Ho chiesto che antenna stai usando adesso? La Ringo. Non ho capito. La Ringo. No, la Ringo, sei per 5 ottavi? No. Come ti arriva a te, Natali? A me Antonio mi arriva sempre bene, anche se c'ha la Ringo mezz'onda, quella è mezz'onda, non è 5 ottavi, però... lo sento meglio perché c'ha il cavo più grosso, poi ricevo meglio io, capito? Ma come ti arriva adesso di segnare lui? Per vedere il 30 tra me e te? Capolo, Gianni Boni, tu sei in Chibisi, qui alla Sicilia, io sono qui in Occhi. No, per vedere come arrivi da lui e come arrivi da me, se c'è differenza. E io, da te quanto ti arrivo? Qui mi dà segnale 3, però questo Smitter è di quelli un bel affare, mi dovrebbe essere, penso, 6-7. Ciao, va bene. Dovrebbe essere, questo non è affidabile. Tu sei 8. Però c'ho qualche cosa in più io, No, qua arriva 9-10, coso, Antonio, 9-10 arriva, 20 di bigli freghi, fra. No, però vedi quanto arriva forte da te, cavolo. Qui non riesce a entrare invece. Vuol dire che la tua antenna già è aperta, vedi? Ha migliorato parecchio. Ciao Franco. Eccomi. Ciao Franco, buonasera. Ciao Natalino, ciao Antonio, buonasera, Società 3. Vai Franco. Beh Giulio, mi sembravi in macchina. Com'è in macchina? No. Sono a casa sono. Il segnale non è il tuo però. Lo so, con un watt di potenza non posso avere di più. Va bene così. Sì, va bene, però mi stavo già preoccupando, con solo watt non posso pretendere di più, anzi non mi interessa nemmeno avere un risultato migliore. È interessante che mi sentano, va bene così. Riprende e fai girare. No, ti ascolto benissimo, non ci sono problemi. Era solo una precisazione, diciamo, dai. A volte uno trasmette magari con qualche problema, non se ne accorge, quindi è meglio sempre avvisarlo. Comunque ben sentito, dopo tanto mi fa piacere averti riascoltato. Dai. Avanti, chi è rimasto? Natalino. Ciao Giù, ben entrato. Ciao Natali, anche un po' di propagazione c'è per giunta. Va bene così, a voi. Ciao Antonio, riprendi. Capo, per essere con poca potenza stai arrivando bene qua. Qua è che noi siamo molto lontani a confronto a tutti. Infatti, minimo sono 15 km, da dove sono io, a dove sei tu saranno una quindicina di chilometri più o meno. Per cui va bene così anche tu. Va benissimo. Vediamo poi se è entrato qualcun altro, c'era Massimiliano o Claudio o Gianni che sta piattando l'antenna sulla macchina. Vediamo un po'. Sì, io sono qua, arrivando in collection attimo, ci sentiamo dopo. Non ce ne vuole potenza, no. A me con 4 watt, poco fa, ma ho sentito un camionista a Malaga. Figurati. Appunto, la propagazione fa miracoli. A me un po' di giorni fa con un watt solamente mi hanno risposto dalla Puglia, se puoi immaginare. È la propagazione che fa miracoli. Sì, qualche DX l'ho fatto anch'io, figurati, ho l'antenna nella finestra. Però qualche soddisfazione ce la togliamo ogni tanto. Sicuramente sul tetto non c'è paragone, però dai, però adesso va bene così. E prima con l'altra antenna non sentivo nulla io, te lo ricordi fra? Adesso sento anche la propagazione, anche se sono bassi li sento. Io li sento bassi, ma per esempio quando io li sento 1-2, gli altri tipo, non so, Massimiliano, gli arriva 9-10. E cosa vuoi? Anda bene così, anche con 4 watt ci facciamo sentire. Giulio? Sì, certamente sì. No, ma va più che bene per la città, cosa non è il caso di andare a aumentare niente, andiamo bene così. Anche la Claudia anche, poc'anzi. Ciao Claudio, se mi ascolti. Avete detto che c'è anche Massimiliano, io lo chiamo, vediamo. Massimiliano, ci sei, buonasera. Ha detto che è andato un attimino nell'angolo cottura. Adesso è già mente a me. No, la Massimiliano stava chiamando. Massimiliano! Sta bufando Massimiliano. Che dopo già entra. Chi è che sopra la modulazione? Chi è che voleva entrare? Forse ho parlato io, ho chiesto a Giulia se stava usando l'apparecchio nuovo. Sì, confermo. Dai. L'altro l'hai parcheggiato per adesso? Sì, no. No, non mi serve più di tanto, va bene così, al minimo è più che sufficiente. Mi sentono anche fuori, tipo Porto Torres, tipo Muro, eccetera eccetera, per cui va bene così. L'altro giorno c'era, come si chiama quello, il Claudio di Muros, però qua arriva un bel basso, porca miseria. Se non metto l'antenna sul tetto difficilmente riesco a sentirlo bene, basta un po' di QRM e lo perdo subito. Certamente sì, lo so, purtroppo è così, pazienza. La lontananza è alle volte micidiale, non aiuta più di tanto, per cui è anche la posizione, soprattutto la posizione, che non aiuta molto, però in linea di massima va bene ugualmente. È interessante ascoltarsi fra. Sì, diciamo che c'è proprio tutta la Sassari, tra me e lui c'è tutta la parte alta di Sassari, tutte le montagne di Ossi, tutta la zona lì, dove c'è la cementeria, e quindi non ci vediamo come antenne, però a volte aggancia, diciamo che è linea retta, una settantina di watt, 70-80 watt, e allora riesco a tirarlo veramente bene, così arriva decentemente. Facciamo riprendere Antonio, anche Antonio deve essere una zona coperta per me. Vabbè, c'è tutti i palazzi, ciò, dai. Tu che zona sei, Antonio, puoi dire? Io Milano. Quindi, la parte alta? No, basso, proprio basso. Quindi, c'è lo stesso, tutta la città c'è lì, l'ospedale, tutto in mezzo a noi, Sì, guarda che sto arrivando anche troppo forte, da te. No, va bene, non ho problemi a ascoltarvi, mi ascolto tutti. Caffa. Adesso quando sono a casa, te lo ricordi l'altro giorno avevo aumentato un bel, oh, cazzo, ti facevo lo Smith, il poverino soffriva. Gli ha messo il cuscino per non piegarmi là, come? Te lo immagini, Natali? Io già me lo immagino, se mi faccia sempre lo Smith ogni volta che entra. Qua adesso sta arrivando a 9.10 lui, ma è in zona bassa, è proprio nella zona bassa di via Milano lui. E per arrivare a 9.10 qua sta arrivando veramente bene. Ma c'ho come lui? Va bene, la cottura. Che sciuga, ah, bella festa, bastaina. Io ho preso la Mex l'altro giorno, un'offerta, mi sembra meno di 90 centesimi. Lo so, mi prendi, sì. Allora, ciao a tu, una birrettina, no, io l'ho preso a 99, mi sembra, una cosa del genere. Ho preso due casse. E così, va bene, la Bastaina è buona come... No, la Max mi piace un po' di meno la Bastaina, la verità. Per la Max preferisco più la Tubor. Avanti, break. Buonasera a tutti, già da questa parte, non ho fatto ascolto, sono entrato adesso, buonasera comunque. Buonasera anche a te. Ciao Lubrefè, buonasera. Ciao Lubrefè. Ciao Gianni Lubrefetta, ben entrato. Eia, eppure io un amico me, quando vado al circo un bel volte dico, dammi un addubbo. Un tubo. Gappa, andamene vera, avanti, Lubrefè. Aspetta, roba di gente. Ieri a rimane non verrebbe più nessuno, rimane con Tunciu. Oggi bella popolata, dai, buonasera a tutti, rinnovo i miei saluti, dai. Troia. Qua stiamo a parlare di birrette. Bianco, un attimo per me. Ciao Massimiliano, ciao Gianni, ben ascoltato, dai. E anch'io devo andare al negozio adesso, dai. Esco, ci sentiamo più tardi, se coincide. Riprende Massimiliano, ascolto finalino e chiudo che devo andare alla MD. Ciao, riprende, ciao Natalino, ciao Gianni, eccetera, eccetera. Ciao Giulio, non lo sapevo che c'eri tu, non ti ho sentito perché ero nel piano di giù. KK, là. Ok, ciao, allora, buona serata, buon divertimento, buona passeggiata e buona spesa al negozio. Avanti, Fra. Franco è in bianco, dai. Ciao, Giù, buon proseguo. Avanti, Antu. Antonio si è sentato, boh. Prefè, io riprendi, dai, su che andiamo. Ehi, ciao Giulio, buona serata, dai. Alle prossime. Poi, e quindi, preferenze, Tuborg, Vastainer o Max? O Stella Artois, come ti senti voi? A me mi piacciono tutti, a me l'unica birra mi piace un po' di meno, la verità, si dica la nostra azzurro. Perché rimane leggermente ranzighina. La Stella Artois è buonissima. Concordo, quella che proprio non mi si va, anzi mi fa bruciare il stomaco è l'Ichnusa. Allora io bevo molto, cioè molto, oddio, non bevo molto l'Ichnusa, la Bex, l'Anic non è che mi piace tanto e la Nastro Azzurro. Queste sono le birre che compro molto di meno. Poi vabbè, diciamo che prendo Bavaria, Vastainer, la Tubor, sono birre che mi piacciono di più, ecco. Più o meno abbiamo i gusti simili, Massimiliano, sì. Oh, yeah. Sì, la Bavaria è buona, si lascia bere anche a me la nostra azzurro, chissà, non mi si va. Ma la peggiore di tutte è proprio l'Ichnusa, non so cosa ne pensi Antonio, cosa dici Antonio? Ma la Bavaria lo già fa dividere la mamma. E allora? Fa vedere facile la bava, sì, anche io non mi piace la... Allora, se sono in compagnia che c'hanno solo quella, un bicchiere la bevo, ma è una birra che non mi piace, è ranzica, che non vedo, non mi ti va. E l'Ichnusa mi pare è vagulurata. Io non ci mi piace, li ho un po' tutte, quando vuoi passare, c'ho il carico, nel cavedio, il freezer pieno, tutte, anche la nostra azzurra, ma un'altra no, c'ho la Bavaria, la tua, di tutto e di più, la Tuborg, tutte ce li ho, le porte d'aria ogni tanto, dal bar, capito, ce li ho tutte, quindi quando vuoi passare li assaggi e poi mi dici se va bene, anche la Bavaria ce l'ho, ma guarda dove te vengo. Attenzione, il canale 10, ascoltate il doppio room, chiama, cambio. Io già ti ho ascoltato, ci vediamo se ti hanno ascoltato gli altri. Ciao Gianni Lubrefetta. Ciao Claudio, buonasera, ciao doppio. Doppio in baramobile, avanti, avanti tutta. Sì, in baramobile sono, dai. Sto andando a fare una commissione e poi rientro a casa. Franco, ancora c'è? No, adesso è andata bene anche lui. Anche io già ti ascolto bene, là. Vai Natali. Natalino sta mangiando, orario di ospedale. Quando sei anziano bisogna mangiare a una certa ora per digerire. Sì, ma non risetti però. Non ti cercare compagnia. Anziano sarai tu, hai capito, bello bene. Mico come ti dici da pizzo. Io ero al telefono. Al telefono? Sì, una signora mi ha fatto una telefonata adesso e la stavo rispondendo. Cava cava, va bene, dai. Volevo dirle a Franco che l'antenna è 1,80, l'ho misurata adesso, c'ha ragione lui. Quelle di prima erano 2 metri. Ehi, alla mia 6 metri, no, 7 metri. Vedete, la turbo 2,1, cazzo, 7 metri in macchina, pensavo avevi la mano qua in macchina. Ma... Mi sono 9 centimetri. Non buffonare, ma si vedeva che a quella di Gnogno c'aveva l'antenna con il radiale in macchina. Cazzo, 9 centimetri. 19, non 9, 19. 9 centimetri per la Romano. E alla punta l'attacchi la bandiera ai 4 muri. Eccomi. Non relassi, compagno, se no non la mantiene la bandiera. Ecco, non mettere la portante perché ti ingesso da qua, ti allusai. Ho detto eccomi. Hai capito Massimiliano? Sotto al cornicione ci vuole l'elastico per mantenere la bandiera. No, Fra, sto scherzando, giustamente. No, io faccio la gatta andando al cornicione. Lo fai, tu non vedi, a chi vedi voluto un cornicione, cosa ha messo di verso all'altri? Adesso gli ha voluto dei bimbi, però io. E non lo posso neanche togliere. Franco! Riccio! Eccomi! Ehi Gianni, so, l'asco l'ho misurata l'antenna, hai ragione tu, 1,80. E quindi è uguale, alto 9,30, sì. Sì, sono su al ponte, dai. Fortissimo qua. Al ponte nuovo, Sì, sì, no, arrivo ottimamente. Cava cava, dai. Andà bene, avanti a chi tocca. Sono Mari Bippi, io e... A sola, lo braffè, lo cornicione due o è te? Metto spesso normale, la salute. E oggi pure una tovana. Io l'ho già attaccato, ma non ho sbagliato il canale di leva, mi sono avvicinato. Ma io se non ci posso cartettere? No, non ho canale, ci posso attaccare un cornicione, fermo la guifa da 60 e se va tutto dentro, sotto, alla volta. E invece vai, sei preparato, uno ha detto, ma cos'è YouPorn, ha detto? Non stiamo parlando perché, lo stiamo dicendo, stiamo parlando di commissioni, canali. Non avere così, un profè, eh? E muore un gomito appena appena te lo vuole di sotto, alla pianta dello vedi, e sei tranquillo. Un figurone! Adesso li metto a collare, mi pare, provo a mettere l'antenna per vedere se arrivo meglio. Ma il collare della commissione? Ehi! Con la salsa e vai lui bucare un capo pure a pigliaria e ci aiuto. Oh claro, lei ha un cannavo. Ah, è troppo grosso con poverino, vuoi affoga così lo struzzi. A volte ci vuole un po' a trotto perché è un po' troppo nervoso. Allora non è andato, vuole andare, vuole andare, ti vuole andare, stai calmo, non mai ci vedi, c'è anziano, ti vuole andare. Va. Però se le metti nell'attico, hai provato io, oh Gianni, lo profeta, tu le metti nell'attico la cornicione, diventa proprio ma duro, angoscia allucinante, è un cornicione super. Ehi, adesso la stiamo usando a capo, mica, noi. Oh Gianni, ho più rude, il tuo è a camatero cornicione. Gianni. Avanti. L'hai fatto 110 per il cornicione? No, negativo, ancora no. A capo a terra, eh? A testa in giù, No, io spengo, va. C'è il punteggio ancora. Com'è che diceva Iazzone? Provare per credere. Allora basta. Già. Provare per credere. Cornicioni o cornicioni, l'importante sia tutto puntellato. Cava cava. Oh, mutia va che sto prendendo bene la girola e ti finisci con. Lo cornicione cosa pensa? No, parlate di altre cose, fa vedere di facciati. Capito? Fa vedere di altro, ma lasciate i di cornicione. Che se no non va bene. Oh già, si può far vedere il fiago di fava? Anche di facciate si può parlare. Cioè, uno è lo cornicione, che è tutto davanti alla facciata. L'altra è Adaredo, capito? Che è una facciata di guru. Ecco. Vai, riprendi tu, Beffe, metti ordine, dai. Oh, la massa mia. Che suga. Che suga. Ma c'ha carato, Senti come io ti avete fatto bugia a tutti, dai. Ma Giulia è andato via, E secondo te che hanno fatto il cornicione? Porca, vedi, neanche salutatolo. Boh, io non ho sentito che mi sono allontanato. Anche ora stiamo parlando, stiamo facendo questo normale. Adesso con 110 si può fare il lavoro dei cornicioni. Io l'ho già fatto, l'ho già revisionato, non si sa mai. E anche io, claro, se no casino. Cosa c'è il canale 12? La revisione scade il 12. No, a me ogni anno, io ogni anno faccio revisione, non si sa mai, capito? Sia che la buoni va a capo a terra e tocca pure la braccia sotto. Ho un appuntamento a Pedanieta. Allora, profè, come tu sei cicco, prova a passare un gabbo, va, vedi, ha posto la paletta con la braccia sotto. Ma ha catramato o no? No, non si sta catramando, è così, all'aria aperta. Anto! Aiuto, sveglia! Sveglia! A me sentite con 5 watt? E mo vai! Andava e dai! Lascio così! La musica stai ascoltando? No, è un computer che c'è roba! Roba Burnic? No! Sta qua un programma! Daniele! Fate pure uno scambello con un branchetto! vuole chi per spaventare? Ah, ma se mi caccio un capo. Io già li faccio, intanto, già filare i beri. Fra un po' non più, ho deciso di tagliarle. Ah, io non le faccio la macchinetta perché ho paura, però ogni due o tre giorni li bacio la cosa, la macchinetta, ma non le faccio come te le fai tu, mi fracca, sono così, ho paura io. L'altro giorno le ho fatte addirittura con la lametta, Io ho paura così, capito? Ho paura. Le lascio corti, corti, corti, metto proprio quello a uno e ne buco un tutto, però a farle con la lametta ho paura. Mamma mia, già mi taglio in faccia, figurati in capo. No, anzi, è più pericoloso in faccia. Se non hai niente, se non hai qualche neo, qualche escrescenza, diciamo, vai tranquillo. A 10, Filano, neo. E il culo vedo, neo. Neon. E allora, già sente un neo. Non nasce neo. Non nasce neo. Già va bene. Però ho paura, la temo, capito? La temo, meglio niente. Avanti, Natalino. No, Natalino sta mangiando, così è. Natalino, mangiando stai. No. Allora, riprendi e parla, dai. Connessione tua, c'è tutto a posto. Ehi, revisiona tra poco, Hai messo anche le tasse nuove. Te credo. Incanizzato, dai. Ma forse l'ha incanizzato, se no che ha già a terra. Oi. Che non è incanizzato, la posso guardare, faccio 3 metri e già lo profetta. Cos'è? Non è questa antenna. Tu, prefe. Vi siete sovrappopolati, ditemi. Ho detto, siete preso questa antenna. No, in questi giorni devo fare l'ordine, nella massimilia. Ah, ok. Quella però te la lasci, no? Ti buschi un altro pezzo di capo e te ne lasci due. Antenna, capo, PL e microfono. Faccio tutto un tiro. Ok, no. Va bene, intanto mi sono aggazzato a piazzarlo. Va bene, già ce l'hai già il palo? Sì, tutto a posto. Mi manca solo la roba da fare l'ordine e poi ci c'è. E poi non ce n'è più per nessuno, beh. Oh già, tu stasera ti fai una passeggiata come fai tu, no? Vai verso dove abita la Tarina, ho messo il tuo luogo, le tratti tutte in terra e te lo piatti tu. No, comunque va bene, ma quella lasciala a me, Gianni, quella lasciala così com'è e le metti l'altra a fianco, così fai le comparazioni a vedere dove ricevi meglio, se ricevi meglio la boomerang o quella, perché stai attento alla boomerang micidiale, mi quella che sei tu. E sono 9:10, sei qua a me. Ah, tu qua mi arriva un bel forte a me. Forte arriva. Noi che siamo molto lontani, noi non tu. Se sei ancora al lavoro, già lo sai dove sono io. Che ti arriva 9:10, una bomba arrivi. E anche qua, uguale. Ma quella evidentemente c'è qualche varco. Ma poi io mi ricordo Salvatore Maestrale, quando abitava via le Porto Torre, si faceva il burro al grillo. A voi ce ne andate ottava, non era via De Noga, era Andriga. Ma quella zona lì, proprio via le Porto Torre, dove abita lui, perché lui è dietro, dove c'è la stazione, cazzo, è una zona micidiale. Già lo so, già. Prova già, voglio avere il segnale. Eccomi, sono circa 2 watt modulati. Allora, qua sì, come portante fissa, diciamo, sei 7, e vai a picchi di 9,5, più forte di Claudio arrivi, con 2 watt. Da lì si mette un'antenna, e lì è una buona zona, poi lui è tutto aperto, capito? Aperto sì già. Nord-ovest sono tutto aperto, dall'altra parte sono tutto chiuso. Vabbè, ma quando metti quell'antenna ti apri tutto. Ah, guarda. Sto aperto, questo Gianni Lubroffetta. Oggi siete montoni. Vabbè, quando metti quell'antenna, diciamo che riceve meglio, dai, una 5 ottavi e tutta la sagupa. Quando ti arriva già, non hai fatto l'ordine ancora. Tu immaginati, Massimiliano, mi sta arrivando quanto mi stai arrivando tu, 9:10, con picchi positivi addirittura. Perché è tutto aperto, questo Gianni Lubroffetta. Anche l'LC è aperto. Sono ben lontano però, Lasciamo entrare, ma io a te ti vedo, non è che... se ti vedo non ti vedo, perché non lo vedo io stasera. Però essendo in alto, tu c'è un buon segnale, anche da liscio, se 9:10, quando agganci aumenti, però così, per Infatti che stai usando tu, nel senso pochi, l'antenna eccetera, lui sta usando una boomerang. Sì, ma infatti sto dicendo, quando lui mette una 5 ottavi, sapetevi, anche da voi pesa la portata, la stazione tutta la lì, non fa più da nessuno. Basta un momento, ci ricordiamo Falcone. Non è che era molto distante da lui, no? È micidiale quella zona lì del cimitero, la stazione è micidiale. Oh, qua è tornato anche più basso, figurati, lui è ancora più in alto. Gianni, c'è ancora? Eia. Ah, sei a casa? No, Gianni, scusa, Gianni, doppio rumo. Mi pare Gianni ha suonato tutto, avete cominciato a farmi dei correccioni, fiato di fava. E se ne è andato, dai. No, ho detto che dormo a prendere la compagna per dover fare una commissione. Va bene, dai, vi saluto, va a fare una commissione, ciao ciao. Ciao, ciao, Anto, salutami Daniele, ciao. Ciao Anto. Ciao Anthony. Ciao, ciao Anto, ci sentiamo. Buona bombola. A Musvera. A Musantrinda. A che Chantalda. A Tipurrata, Pigliara. E lo Balbin, giù le Giunivelle. E lo Baldiccio di Giovanni Antoni. Lo Baldali di Radio Almana. Oh Fra, dove state lavorando? In che zona siete? Oggi ero un po' più giù di Olmedo, lato Alghero. Ah ok, dai. E noi stiamo facendo la stazione di Olbia. Ma con chi? Con RFI? Salcef. Ah, la Salcef. Chi c'è? Colombo, chi c'è? Non lo so, perché ci sono i miei colleghi di Scavallo. Poi dobbiamo fare Oristano, Macomer, Berchidda, poi aspetta, un altro posto giù vicino a Cagliari, ovviamente lo metteggiamo. La salcia è forte, eh. Lo so, lavori glielo facciamo loro. Una bella ditta. C'ha anche le persone sono in gamba, eh. Eia. Questa zona la segue Michele, quello di Ossir. Sì, qualche lavoro anche qua a Sassi, da noi l'hanno fatto loro, saldature, cose varie, armamento. Io sono una buona azienda. No, ditta seria, veramente seria. Anche Zanolla sono in gamba, però credo che la Sassi sia qualcosina in più, anche più grossa credo. Scusate un attimo, Franco, ma... siccome qua sotto casa si posteggiano i bus sostitutivi, sempre con il motore acceso e condizionato la palla, deduco che ci sia un lavoro sulla tratta, no? Sì, beh, ci sono delle soppressioni, mancano dalle 8:30 alle 12:30, c'è un'interruzione, e poi dalle 14:45 alle 18:30. Eia, se continuano a fare gli sboroni li chiamo la polizia stradale. Per inquinamento? Allora, il motore acceso e il condizionatore con le ventole a palla, fate un casino, lo ti dico. Cioè, è insopportabile. E poi adesso col caldo tiene le finestre aperte e si ferma nei ghisti con il motore acceso e il condizionatore a bomba. Cioè, infatti l'altro giorno mi stava già partendo la carogna e meno male sono partiti, sono guai. Ce l'hai sotto casa proprio tu. Dai, un pezzo di trafila dall'alto nelle ventole. Qua fanno un bel casino comunque, quando attaccano l'aria condizionata. Sono ditte esterne, sono tutte ditte in appalto, così è. Certo. Vabbò, dai, avanti Massimilia. Trappa brioche, va bene. Facciamo riprendere, vediamo un po' se Gianni doppio rum riprende, se no Natali riprendi tu. Ci sono io. Ho fatto la commissione e sto rientrando, dai. Ok, andrà bene perché ti abbiamo chiamato prima già, sicuramente ho ricaduto. No, ero in banca, ero Massimiliano. Ah, ok, va bene. Vai Natali, riprendi. Cazzo non è serrata la banca. C'è il banco, ma no. Ah, il banco Matte, ehi. No, la banca commerciale non è chiusa, è aperta anche di sera. La banca commerciale mi l'intesa. Ma no, risetti, però. Alle 8 vanno via, fanno due turni. Ma fanno operazioni anche dei sportelli così, a quest'ora? No, anche le casse sono chiuse, fanno operazioni, se devi fare un'operazione tua personale si può fare. Io ad esempio ho appuntamento il 6 giugno mi pare, alle 7 di sera, figurati tu. Ah ok, ti serve compagnia? No Massimiliano, devo firmare quel documento che ti ho dato l'altra volta. Ah ok, vabbè, compagnia così, non ti preoccupare. scotti quel rubo, niente? No, no, ma ce li sono già versati, non c'è problema. Devo firmare quell'accordo che ti ho detto, basta. Kappa, va bene, avanti, un profe, tu già sei in zona di binari e ferraglia, no? Juan, cioè, adesso, ti ripeto, è un po' fastidiosa questa storia qua. Cioè, perché capita che arrivano, scaricano e poi vanno via subito. Molte volte però invece prima di caricare invece il gas sempre con il motore acceso, poi attaccano la cosa della condizionata e vanno via il gasio. Questo è solo uno, poi figurati quando ce ne sono due o tre. Insomma, la pazienza non è che duri all'infinito, Ma che cosa sono per dire, furgoni? Furgoni Gran Turismo, per fare la sostituzione ai treni di Alghero. Ah, mamma mia, è fiago che non fai. È una rottura di balle, capito? Ci sono quelli che arrivano e spengono, ci sono gli altri in caso con tutto acceso. No, vedi così, scendi con un bastone. Chiama la municipale, non ci bisogna chiamare la stradale, chiama la municipale e glielo dici. Perché non possono stare col pullman acceso sotto casa degli altri. Uno che inquina. Per non riscaldarsi, capito? Per tenere fresco l'ambiente lo fanno. Vabbè, Fra, ma c'è un articolo di codice della strada che tu quando arrivi a Caponera devi scurare tutto, punto e basta. Allora, diteglielo, l'ho fatto presente, tanto se no non risolvi nulla. Guarda, mi era successo anni fa, quando la TP aveva ancora i mezzi, quelli menarini, quelli arancioni. Cazzo, uscivano praticamente da deposito con problemi della compressa, problemi di riscaldamento e problemi di freni. Cazzo, ma dimmi tu, fai uscire un mezzo pubblico, cazzo, che è praticamente una ciofecca, e da poi cazzo, sotto un gas e risiedi a Manzano, al motore a palla perché devi caricare i freni e devi caricare l'aria per aprire le porte. Ma non ve l'avremo. Casino, qualche anno fa qui addirittura lasciamo i locomotori sempre accesi, notte e giorno, cioè, no, di notte no, ma tutto il giorno, quando erano in prova per provare i motori, no? Se scaldavano, ne avviago. Ehi, guarda, mi ricordo quando c'erano le littorine, quelle vecchie, cazzo, ma caridai, bisognava chiedere tutto, ne avviago di gasolio, ui. Allora, quelli hanno due motori, ne avviago niente, quando bruciavano male. Oh già, ma quello è il palazzo della ferrovia, ovviamente tu. Sì, questo dovrebbe essere un ex palazzo dei ferrovie. Me ne ricordo, ma che sotto c'era il bar, il circolo, cos'era, le ferrovie. C'è ancora il circolo ferroviario, quello con l'anfiteatro. Ehi, già me ricordo. Ma è un altro edificio, è un po' più sotto di te, così. Che cosa? Il circolo. No, vabbè, adesso effettivamente questo non c'è nessun circolo, è che ogni tanto quello spazio viene affittato per eventi e roba del genere, soprattutto per chi sta nelle ferrovie e roba del genere. Ogni tanto vedo che fanno pulizie, mettono tavolini fuori, mettono da mangiare e da bere, e niente, evidentemente è sempre riguardante l'ambiente delle ferrovie, dai. Prima proprio c'era il bar proprio lì sotto, ma è collegato al tuo stabile o è una cosa a sé? No, è una cosa a parte, E allora già ricordavo bene, dai. Ehi, avanti Massi. Massi vuoi stare a prendere un'altra birretta? Passa la barbarie, figliente. Dove sei già? Io, di Marra. Via Marra, senti. Da Alta, è una traversa. Non mi perdo, ma vie così non le conosco. Oh, neanch'io. Mi ascolti, Gianni? Dove ti ascolti? Adesso sei risalito adesso, Forte chiasso. Minchia, sei passato da un segnale 2-3, adesso sei oltre 9-20. Adesso sto prendendo l'inizio al Ponte Nuovo. Non mi ripoco fa, Questa è la fase più favorevole per me. Ah, magari. Sì, anche qua 9-20 fa. Che questo qua sta imparando ad andare in moto, cioè, non è da mettere allora, ma è una maschera là. C'è gente sotto, cos'è? Propagazione, qua. Ah? No, sentivo propagazione. E dopo riprendo da casa, tra un poco arrivo. Un'altra mezz'oretta, poi c'è dopo il carro. Forza in FM, eia. Riprendi Gianni. Eia, è bulldozer che fine ha fatto? Va la gola secca dove? Ah, ha fatto la bocca alla Weissteiner adesso. Ui. L'ho vista, ce l'ho offerta l'altro giorno, mi sembra che era completa. Non mi ricordo, l'ho letta la Weissteiner. Questa la Cry, a meno di un euro. Ehi, c'era anche la Kobeck, quella è la settimana scorsa, credo, boh. Non è andato quasi nella rotazione. Adesso ho preso la Dex, che era 89-88, boh. No, io c'ho anche la Bavaria, è buona, la verità. Sì, anche io la prendo. Quando è in offerta anche quella, perché anche quella già costa. Cazzo che costa? Un sinuccio. Bavaria. Perfetto, è poco risparmiato. C'è frega niente, non risciulli già, o già ne fai risciulli. L'unica che non mi piace è la Dre, perché sai non mi piace. No, vabbè, ma io non ce lo sai, l'aria che lavoro fa, quindi per birre le prenderei perché le conosci tutte. Però ne abbiamo preso un po', capito, che vabbè, noi già beviamo, conosce gente, anche ieri abbiamo fatto un po' di coso. E c'è un po' tutto, Tuborg, Dreher, Weissteiner, Bavaria, Trazzurro, un po' di tutto, poi cosa c'è? C'è anche quella. Ah, ho preso quella a limone, buona. Domenica l'abbiamo bevuta un po' per evitare un po' di alcol, visto che sabato eravamo di compleanno. Allora la domenica un po' leggeri, quindi ho preso anche io una limone. E anche quella cosa non si acquisciuti. Vabbè, comunque, in quel frigo c'è un cavello solo per le bibite, quindi c'è di tutto e di più. Va bene, che ore siamo? 19:15, 19:15, dai, io mi allontano un attimino, me ne vado un po' fuori a fare una sigaretta e vabbè, vediamo se l'aria mi fa un gin tonic o un gin lemon, qualche cosa, miravicola, ci sentiamo dopo. Capo, anch'io mi trovo a preparare qualcosa per la cena, dai. Saluto a tutti, alle prossime, avanti, doppio rum. Dai, io vengo avanti, dice a tutti, e riprendo da casa, dai. Comunque, la soddisfazione, ma... Veglia, ti ringrazio. Sono convinto due, Fra. Scusami, ma era 2 vinti, quello lo so sicuro. Questa qua, sicuramente, la nuova che hanno fa meno. Sì, sicuro, sicuro. Io pensavo che l'avete tagliata, invece poi ho letto che ci sono due tipi di antenna, da 2 vinti e da 1,80. Comunque, grazie ancora. Sì, ma figurati. Ciao, ci sentiamo dopo, là. Ok, avanti, dobbiamo fare. Ehi, me. Capita giusto a fagiolo, mi devo assentare un attimino, sciuccarmi la faccia, che no, che è un caso allucinante. Dai, magari riprendo tra poco. Eppure è rinfrescato, io l'ho aperto adesso, è sempre andare a fresca. Ma no, che tutta l'aria a Cabassori, Fra, quindi il caldo prima di andare via viene bassa. Non lo so, vedi tu, dai, se ci sentiamo, un abbraccio e alle prossime. Chi c'è rimasto? Poi si è rientrato cosa, come si chiama? Massimiliano? Dai, rientro tra poco. Dai, ciao a tutti, anch'io mi sto notando. Chi c'è rimasto? Avanti. Hola. Cambia. Hola. Hola. Che è? Avanti. Mi senti? Io ti sento basso, mi senti? Cambia. Sì, anch'io ti ascolto basso, chi sei? Palmadula. Palmadula? Vada. Io sono qui, Sassari, però zona bassa, quindi arrivo male per quello sicuramente. La parola. Ma sei in barra pesante? Vada. Si sente dall'apparecchio da combattimento. Chi sei? Qual è il tuo nominativo? Franco da parte mia. Ti sento bassissimo, ti sento. Ho detto chi sei? Salvatore, no, anch'io ti ascolto basso, però non ho QRM, quindi riesco a tirarti fuori, Io sono Franco, da Sassari. Ehi, ma dove sei tu? Proprio il Monte Basso. Ah, sopra il monte. Sotto, proprio Monte Basso. Come si chiama? Dove c'è la stazione, dai? Le ferrovie. Ma c'è nessuno in frequenza. C'erano un paio, ma sono tutti in QRX. Dalla. No, probabile che rientrino fra poco, qualcuno è che ti ascolta meglio di me, che abbia l'antenna sul tetto magari, capito? Io. Ci aggiorniamo, ciao caro. Ciao Franco, sono rientrato in tempo per salutarti, dai, ci sentiamo, ciao Franco. Ehi capo, ciao carissimo Giulio, poc'anzi c'avevo gente, non ho potuto salutarti. un abbraccio da parte mia. Guarda che c'è uno da Palmauda, se lo senti meglio di me. Sì, lo sento bene, ma forse lui lo sente a me. Attenzione Palmadula, ascolti Sassari. Magari non c'è più. Attenzione Palmadula, non c'è più. Vabbè, pazienza, dai, non fa niente. Io lo ascoltiamo bene comunque. Ci sentiamo, ciao fra di nuovo, dai. Sono appena rientrato, sono andato a negozio e sono rientrato adesso. Ciao, ciao, ci sentiamo. Ehi, ti hai fatto una bella passeggiata, dai. No, qui arrivava, il segnale era zero, la radio, diciamo, appena percettibile, però riusciva a capirlo, dai. Ok, no, qui arrivava bene, arrivava Radio 5, perfetta, non c'era problema. Santiago 7 Radio 5 arrivava. A Madura ci sei? No, non ci deve essere, boh, perlomeno io non arrivo lì. No, sicuramente Palmadura non c'è. Mi cade, forse Salvatore, mi ha detto il nome ma non l'ho scritto. Mi sa che ho capito Salvatore da Palmadura, era in barra pesante, in camion. Sì, ha detto Salvatore, ha detto, sì, è vero. Va bene, ti saluto di nuovo, ciao Franco, un abbraccio e ci sentiamo, ciao. Sì, capa, ho cambiato l'abbraccio, salutoni, alle prossime. Tutti andati bene scelti. Ce n'è nessuno? Tutti scappati? Attenzione, binario 10, binario 10, c'è qualcuno? Hola. Brecco, ora, brecco, antenna di gomma, portatile, barrata P. Siete in ascolto? Qua frequenza del barracchino, c'è qualcuno che mi sente? Prossimo giro, prossima corsa. Inserire il gettone, il disco si gira, prego, prossimo giro. Treno regionale, partenza binario numero 1, prego. Sì, ti sento tutto. Treno regionale, partenza numero 1. Attenzione, allontanati dalla linea gialla e basta. È in arrivo il treno che porta a Roma. Chissà se ci arriva però, se non deraglia prima. Saluto a tutti che c'è. Da amici di ACB, sto solo consumando corrente. Cosa state facendo? Gli indiani, eh? No, sul centro Sud Italia, ascoltate questa radio. Brecco sulla 10, perché non c'è nessuno. Santiago 10, radio 8, scusate la presa. Sto vendendo patate, zucchine, cipolle, un euro a chilo. Signora! Attenzione Carlo. Hola, Carlo, ci sei?